E prego adesso il autore del libro di dirci ancora alcune parole. Io brevemente prendo la parola per ringraziare di cuore i relatori, sia per quanto hanno detto sul mio libro, sia per l'assistenza che ha avuto i consigli nel corso della mia ricerca, una ricerca che è durata quasi un decennio, perché ho iniziato nel 1979 e devo ringraziare anche molto l'Istituto Trentino di Cultura, che ha reso possibile, vero, attraverso un comando. Allora ero in servizio nella scuola e per 2 anni ottenni un comando che mi ha permesso di svolgere le mie ricerche soprattutto presso l'archivio del Vaticano e anche in Austria. Una ricerca lunga che, vero, io ho fatto cercando di dare un contributo, rendendomi conto dei limiti del mio lavoro e con l'auspicio che altri portino avanti, approfondiscano, amplino questo lavoro, lo verifichino, perché il mio è stato uno sforzo di portare come dei mattoni all'edificio della storia. Ho cercato di essere al massimo oggettivo, e saranno i lettori eventualmente che giudicano. A me interessa soprattutto che vedano che c'è stato lo sforzo per esserlo, perché io ho cercato di attenermi al massimo, come è stato detto dai relatori, ai documenti, lasciando tante volte, vero, quel giudizio che avrei potuto dare io l'ho lasciato al lettore. Io termino col ringraziare nuovamente, vero, chi mi è stato, vero, vicino nei consigli e nel sostenermi durante questi anni e che mi ha permesso anche, e ringrazio in modo particolare Monsignor Roger, che mi ha permesso l'accesso a quelle fonti così importanti che sono quelle dell'archivio del Vaticano. Ringrazio l'autore e ringrazio voi tutti di essere venuti a questa presentazione di un libro che dimostra come il nostro istituto ha molto a cuore anche la storia di Trento e la storia trentina, e questo